Romanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Buon pomeriggio, benvenuti in questo sabato 16 maggio 2015. Io utilizzo questa data subito per fare un momento di promozione, perché stasera sarò al Teatro Carcano di Milano con uno spettacolo sulle canzoni di Gabber e Annacci e una band di 40 elementi. Quindi chi abita a Milano e volesse vedere una retrospettiva di uno spettacolo, sì, diciamo di sì, sulle canzoni di Gabber e Annacci, questa sera può raggiungerci al Teatro Carcano per vedere un po' anche quali sono state le nostre origini, insomma, no? Sì. Male che vada, c'è comunque la band di 40 elementi. Di 40 elementi. Però veniamo velocemente alla puntata di oggi di Avanzi di Manera, dove ci occupiamo di articoli non così noti, insomma, ai quali noi invece vogliamo dare lustro, cominciando da un articolo di un giornale della zona dove abita lei, giusto? Sì, abbiamo qui Daniele Ceva, che sono io. Io sono Leonardo Manera. E Leonardo Manera, che è qui a fianco a me. Allora, ad Arluno c'è un problema al cimitero. Arluno dov'è? Diciamo dov'è Arluno. Arluno è vicino a Milano. È la prima uscita che incontrate sulla Milano Torino. Io credo che sia un'informazione del tutto inutile. Poi non so, vada avanti a dare queste notizie qui. Allora, c'è il tutto esaurito al cimitero di Arluno. Cioè, non c'è più posto. Quindi gli abitanti di Arluno e dintorni, cioè tutti coloro che qualora trapassassero e dovessero essere seppelliti, sepolti al cimitero di Arluno, sappiano che devono attendere un po' prima di morire. Quindi rimanete in vita, perché c'è il cimitero tutto esaurito e adesso stanno cercando, insomma, il consiglio comunale ci sta muovendo per andare al cimitero di Rodi, Lainate. Si chiedono come le chiedono... partite con le squadre di calcio. Il Carpi, che non potrà giocare nello stadio di Carpi in Serie A, andrà a Reggio Emilia probabilmente, e così anche le persone che muoiono ad Arluno dovranno trasferirsi a Roa, Lainate, con un gran danno per i parenti, perché dopo non potranno più andarli a trovare comodamente nel cimitero. Degli aumenti di spese probabilmente, bisognerebbe chiedere il rimborso spese per andare a trovare i defunti. Che questo fatto dei loculi mi fa venire in mente la notizia di un professore, loculo quindi spazio stretto, un professore che ha vissuto per un anno in un cassonetto. Prima abitava in una casa di 200 metri quadri, poi causa separazione, mi sembra, ha dovuto... Lei non è vero, ma lei ormai dà la colpa a tutti i mali del mondo alla separazione. Non è sempre così, può darsi che l'ho letto qui sull'articolo. Allora, ha visto che doveva ridurre le spese e dalla casa di 200 metri quadri ha cominciato a ridurre sempre di più per andare a vivere in un cassonetto con l'1% dello spazio, l'1% delle comodità, insomma l'1% dell'acqua e dell'energia e l'1% di inquinamento, quindi anche produce meno inquinamento. E comunque creava, diciamo, rifiuti a centimetri zero, cioè rimanevano lì, nel cassonetto. E aveva anche dei lati positivi, per esempio d'estate c'era molto caldo, quindi era difficile rimanere chiuso nel cassonetto, allora usciva e parlava di più con le altre persone. Che bello. Quindi la logica qual è? Che più la tua casa è piccola, più socializzi con gli altri. Bene, ci sono delle battute interessanti su gente che vive nei cassonetti. È uno dei fratelli Marx. Cico, fuori c'è l'uomo dell'immondizia, Gruccio, digli che non ne vogliamo. Ma a un certo punto, dicevo, si comincia a vivere nel cassonetto, poi se conosci una donna bisogna ampliare la casa, magari si diventa genitori, si hanno dei figli. Qual è il problema che si pone quando il figlio comincia ad essere adolescente? Nell'adolescenza è dura, iniziano a fare delle domande un po' così, un po' particolari. Vogliono sapere tutto della vita e l'ape, il fiore non basta più, non convince più. Allora c'è questo professore danese che ha proposto di proiettare nelle aule ai ragazzi di 13 anni i film a luci rosse. Perché? Non lo so, perché è un maniaco e... Questo è veramente incredibile. E tu sei, questo è mio figlio Beniamino, sei ancora giovane per queste cose, hai 6 anni. Non le ha mai fatto domande così un po' che l'hanno messa in imbarazzo. Sì, ma lui dice che tutto fa Gesù. Per il momento è Gesù che ha fatto tutto. Io sto cercando di spiegargli che non è proprio così, insomma, però per adesso è ancora molto soft. Per lui è Gesù il responsabile di tutto. Comunque, il fatto qual è? Dice lui, i ragazzi sono troppo abituati ad andare a vedere i film a luci rossa su YouTube, YouPorn, Pornhub, eccetera, eccetera, e pensano che la realtà sia quella, cioè quale? Perché? Uomini che sono sempre iperprestazionali, che non hanno mai la fase refrattaria. Non è quella? Donne con dei seni enormi. Io pensavo fosse esattamente quella la realtà. Io cerco, ho sempre cercato solo quello. Beh, lei avrà delle fasi refrattarie di cui ci vogliono mesi. Comunque, il problema lui lui dice i ragazzi sono abituati a questo tipo di realtà, e allora noi facciamo vedere quella e poi magari portiamo delle testimonianze reali, così anche il ragazzo può capire e organizzare. Ah! E tutto sommato in sé non è sbagliato, però penso che forse il principio, il concetto di base io lo condivido, no? Tanto loro lo vanno a vedere lo stesso, e se c'è anche qualcuno che gli dice guardate che non è quella la realtà, io condivido. Ho detto una cosa troppo seria. Qualcuno le può dire questa cosa, ma nel suo immaginario la realtà, la cosa più eccitante resta quella. Quindi lei andrà comunque alla ricerca di quella situazione, avendo delle delusioni per tutta la vita e una solitudine, come dire, dalla quale non si può uscire. Ma intanto le ho avute lo stesso. La vita è così. Va bene, diciamo una battuta sulla categoria. Per gli uomini i film a luci rosse sono bellissime storie d'amore dove tutte le parti terribilmente noiose sono state tagliate, perché si va subito al sodo. Al sodo. Allora, abbiamo sentito anche una telefonata per capire quali sono le vostre opinioni. Pronto? Pronto, signora, buongiorno, qui a Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? No. Noi stiamo commentando una notizia secondo la quale c'è stata una proposta di un professore danese che appunto propone di far vedere agli alunni delle scuole medie i film pornografici per far loro capire la differenza fra la realtà e invece le fantasie erotiche. Ma io penso che queste cose qua bisogna forse farne presente più a persone specializzate in merito. Parlarne più con persone specializzate in merito, magari psicologi e quant'altro. Ma secondo educatori, lei... non lo so. Ma secondo... magari tenere informato anche noi genitori, e quindi noi genitori poi trasmettere ai figli. Lei ha dei figli? Sì. Di quanti anni? 12. Quindi l'età si avvicina. Ma lei pensa di parlare ai suoi figli della materia, oppure pensa che glisserà? Sì, che... No, io ne parlo tranquillamente. A casa mia non esistono tabù, cioè se ne parla tranquillamente. Cioè quando si vede un film, magari se c'è qualche scena un po' particolare, la si spiega, però senza. Ecco, se io fossi. Mettiamo che io sia suo figlio di 12 anni, cosa mi direbbe se io vedessi una scena dove un uomo e una donna si baciano? Insomma. Vabbè, fa parte dell'amore, della natura. Se dopo cominciano ad avere anche un rapporto un po' più intimo. E io chiedo, mamma, perché stanno facendo? Cosa fanno quei due? Si amano. Allora è bello amarsi. Sì. Allora anch'io, se trovo una mia compagna in scuola, posso amarmi subito con lei. No, vabbè, quello è un istinto, che è un sentimento che si prova man mano conoscendosi. Cioè, non è che uno come di primo acchito, cioè, si mette e fa determinate cose, almeno. Quindi io con la mia fidanzatina non posso baciarmi e fare anche le altre cose come fanno in TV? Vabbè, proprio come fanno in TV, voglio dire, si deve dare un messaggio diverso come fanno in TV. Mamma, ho sentito parlare di profilattico, che cos'è, mamma? Glielo dico. Che cos'è, mamma, il profilattico? Vabbè, comunque gliene do l'informazione al momento debito, che ne so. Quando il figlio ha 30 anni, mamma, ho 30 anni, adesso ho 7 figli, perché non ho mai saputo cos'era il profilattico. No, non arriverò a questo, questo è poco ma sicuro. Anzi, glielo faccio anche vedere, gli dico andatelo a comprare. Glielo compra lei, come lo prende? Ritardante per lui, stimolante per lei, in orario per tutte e due? Fragola, menta, albicocca, tonno, cioccolata. Siamo sempre qui ad Avanzi di Maniera insieme a Daniele Civa. Civa. Leonardo Maniera. Allora andiamo in Cina. Perché andiamo in Cina? Perché la Cina ormai è la potenza mondiale per antonomasia, è diventata, e dalla Cina c'è questa nuova tendenza di avere degli animali vivi come portachiavi. Lo sapeva, Civa? Sì. No, non lo sapevo, però. Ma vedo insomma, che lei minimamente non sa nulla delle notizie di oggi. Proprio. No, io le ascolto da lei per poi commentarle in maniera nuova, come farebbero i nostri ascoltatori. Animali vivi come portachiavi, tartarughe o pesciolini dalla Cina. Ci sono questi animaletti che vengono messi in piccole buste di plastica con un minimo di acqua e di mangime, e poi con attaccato il portachiavi, e si tengono in tasca come, appunto, come portachiavi normali. Vengono venduti a 1,50 euro. Poi sarebbe interessante, vabbè, questi sono tipo la tartaruga e il pesciolino, ok, però io userei il cane. Sì, anche perché quando non trovo le chiavi lui abbaia, arriva le chiavi in realtà. Ma l'idea è che possa arrivare anche in Italia questa tendenza attraverso i turisti, o anche attraverso internet, il mercato, o anche attraverso il mercato nero. Lei stavo chiedendo a lei che animale metterebbe come portachiavi. Ma io metterei un coniglio, quando è ingrossato troppo lo posso mangiare, vede come sono animalista. Ah, beh, certo. Quindi, prima lo uso come portachiavi e poi lo mangio. E nessuno potrebbe dire lei ha mangiato un coniglio. No, ho mangiato un portachiavi. Esatto. Legga questa battuta, Ceva. Ma quando un salmone risale la corrente, i pesci che incontra cosa gli dicono? Ma come cazzo guidi? Questo di chi è? Di chi è? Ma di Marco Del Conte, che è qui il nostro autore. Eh sì. E che se la ride da solo. Sì, sì, è l'unico che si è divertito. Allora, prima di finire, di mandare in traffico, la nostra nuova rubrica Scherzi telefonici venuti male. Oh mio Dio. Venuti male. Pronto, buongiorno, sono il Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. Stiamo facendo un sondaggio per verificare se il popolo è soddisfatto del nuovo governo o se preferiva il governo Monti, il governo Letta o il governo Berlusconi. Lei è soddisfatto? E lei? Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. Ma in persona? Naturalmente, stiamo chiamando direttamente i cittadini per verificare il livello di soddisfazione. Ah, pensavo fosse una voce registrata. Buongiorno. Buongiorno, stiamo facendo un sondaggio. Io sono moderatamente soddisfatto. Preferiva il governo Letta, Enrico Letta, Enrico Stai Sireno? No, no. Preferiva il governo Monti, quello delle tasse, l'amico della Merkel? No, preferivo... Il governo Berlusconi? No, per carità. Preferiva il governo Andreotti? No, no, va bene questo qui, ma deve fare qualcos'altro ancora. Cosa dobbiamo fare per raggiungere un livello di gradamento esagerato? Dovete lavorare di più su quelli che imbrogliano, ai grossi livelli, parlo di banche, di case farmaceutiche. La ringrazio, seguiremo la sua indicazione, grazie per avermi risposto. Buona giornata. Buona giornata, salve. Ha visto che qui lo scherzo telefonico è andato a buon fine. Io volevo fare scherzi telefonici esatto. venuti male, ma lui ci ha creduto. Lui ci ha creduto, tra l'altro, con un'imitazione di Renzi, credo pessima, ma neanche. No, sono un imitatore provetto, posso partecipare a tutti quei programmi di imitatori. Sì. Traffico. Avanzi di Manera. La rassegna stampa che non ti aspetti. Allora, io devo dire che finalmente ci è arrivata una mail, dopo tante volte che noi ripetiamo mandate mail ad Avanzi di Manera. Che l'ha mandata lei? A me personalmente. Sì, ma se l'è mandata lei? No, me l'ha mandata un signore di Marano, vicino a Napoli. Ha detto, come mai avete citato Marano? Avevo citato Pozzuoli, altri posti. No? E dice, come mai conoscete Marano? E io non gli ho risposto, ma gli spiego qui che ho fatto uno spettacolo tempo fa a Marano e quindi mi è rimasto il ricordo di quella località. Ma... Allora salutiamo il signore di Marano che ci ha scritto, quindi io inviterei gli altri ascoltatori a seguire l'esempio del signore di Marano e scriverci ad Avanzi di Manera @radio24.it. ovviamente una cosa diversa. No, potete sempre chiederci come mai avete citato Marano. Sempre quello. Allora, siamo in maggio, è il periodo delle cresime, delle comunioni, ma soprattutto dei matrimoni. Dei matrimoni, no. Io insomma. Allora vogliamo citarvi il caso di questi due novelli sposi di Pordenone in Friuli, che dopo 9 anni di fidanzamento si sposano e il loro matrimonio dura quanto, Ceva? 3 minuti. No. Solo tre giorni. Ma sai perché è successo questo? Sì. Perché non avevano mai convissuto in 9 anni. Per quelle 3 notti hanno dormito insieme. Evidentemente si sono resi conto di non aver nulla a che fare, di non sopportarsi, di non riuscire a condividere il talamo nuziale. Sono bastate 3 notti, pensi, Manera. Allora, ci lega questa battuta sul matrimonio. Il giudice alla signora: perché vuol divorziare da suo marito? Mi tratta come un cane, la maltratta, la percuote. No, pretende che io sia fedele. E allora cerchiamo di capire se la fedeltà è una condizio sine qua non nei matrimoni oppure no. Vediamo cosa ci avete risposto. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Noi stiamo facendo qualche telefonata per capire dalle persone cos'è il bello del matrimonio, se vale la pena di rimanere sposati oppure no. Lei cosa ne pensa? Io penso di no. Anch'io ho fatto 9 anni di matrimonio e poi basta. Ma prima... poi è finito tutto così. Era già finito prima del matrimonio. Ma caspita, perché dice che era già finito all'inizio del matrimonio? Cosa c'era? Sa, quando ci sono le corna dall'inizio. Ma era lei che le faceva o era suo marito? Io. Ah, già lei tradiva suo marito fin dall'inizio? Purtroppo così sono fatta, cioè, ero fatta così, adesso ce l'ho il nuovo marito, ma a meno corna. Un'altra questione, non ne ha neanche una. Ma cos'è il bello del tradimento? Se lei dovesse dire col primo marito, lei lo tradiva perché? Così la pensavo, non era bello il matrimonio se non si tradiva. Con quante persone pensa di aver tradito suo marito, più o meno? Parecchie, tipo 20, diciamo un po' di meno, ma lì siamo circa. Lì l'ordine è quello. E suo marito quando se n'è accorto? Se n'è accorto per qualche motivo specifico, perché non poteva più aprire nessun mobile in casa? Alla fine non se n'è mai accorto. Ah, e come ci è rimasto? Cosa ha detto il marito? Ti amo lo stesso? Si è fatto frate. Ah, veramente? Bene, ha fatto bene. Poteva far prima. Io volevo fare una domanda alla signora. Questa buongiorno. È Daniele Civa, l'altra persona, il mio collega, io sono Leonardo Banera. Ma lei pensa che il suo ex marito si sia fatto frate anche in conseguenza a quello che, insomma, che ha scoperto? Sia che l'aveva già in mente da tempo, e sia. Quella è stata, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso dell'anima. Ha fatto traboccare il saio. Ma. Ha fatto bene comunque. Signora, adesso. Io suora non me la farei. Beh, no, quello lì l'avremmo immaginato. Non avevamo dubbi. Mi spiace non averla conosciuta prima, signora, esatto. Perché magari potrebbe entrare nel novero dei suoi amanti. L'ultima domanda che le faccio, ma lei, signora, diciamo, non voglio essere invadente, ma dal punto di vista fisico, sessuale, anche era soddisfatta col suo marito, poi novello frate, oppure no? Cioè, cercava degli amanti perché non si trovava bene sessualmente col marito, oppure era una predisposizione? Tutto un insieme. O facevate solo la posizione del missionario a questo punto? Allora noi facciamo un appello perché tutte le signore la pensino come lei, insomma sarebbe un mondo più libero, più aperto. E con più frati. Più frati. Grazie signora. Niente. Arrivederci. Tanto. Arrivederci, Stan. La vita è così. È così, il tradimento fa parte della vita. Lei sa che secondo lo studio di un'università, non ricordo più se svedese o norvegese, il 33% degli uomini ha in sé il gene del tradimento. Lo sapeva tutto questo? Non lo sapevo, ma è una ricerca vera che però mi porta a pensare che anche parecchie donne siano portate a tradire, a meno che non ci sia una sola donna, un troione che si fa il 33% degli uomini che tradisca. Mi piacerebbe conoscerla. Va bene. Allora, e la notizia alla quale facciamo riferimento dopo questa battuta è la seguente: l'ha tradita lui, l'uomo, ha tradito lei con una più giovane e la moglie si vendica con 50 toy boys, non uno, 50. 50 tutti insieme nello stesso momento oppure in varie fasi? Le dico, Carrie Bublett, che è la ragazza, lei Carrie, aveva 28 anni quando ha sposato Adrian, lui l'ha tradita con l'estetista. Hai capito. Lei si è amareggiata tantissimo all'inizio, poi dopo un po' hanno riprovato a stare insieme e tutto sommato sembrava che le cose potessero andare bene. Ma a un certo punto l'amore era finito perché lei ha detto mi ha tradito, non lo amo più. Lei ha lasciato lui e ha iniziato a tradirlo con ragazzi giovanissimi e nell'arco di 2 anni, se non sbaglio, ha fatto sesso con 50 ragazzi, tutti molto più però giovani di lei. Non era più un tradimento se lei l'ha lasciato. Beh no, insomma era uno sfogo più che altro. Sfogo, è vero, era uno sfogo. Inizia così ad avere avventure con uomini più giovani di lei tra i 19 e i 25 anni. I ventenni, conclude questa signora che adesso ne ha 37, sono più allegri, divertenti e spontanei. Ho fatto sesso con 50 ragazzi e mi sento felice. Ma che strano. Tra questi ragazzi c'era anche Guido Scotti, il nostro curatore. Sì, sì, perché non è più un ragazzo però. No, ai tempi in cui aveva 20-25 anni. C'è questa battuta che è carina. Anche mettere su 40 kg dopo il matrimonio è una forma di tradimento. Legga questa che è bella. Leggo questa, solo quella evidenziata con rosa. L'ho capito. Legga questa evidenziata. Ho capito. Non scelga lei a caso. Ho già evidenziato la migliore, maledetto. Sono rientrato a casa e ho trovato Frank, il mio miglior amico, a letto con mia moglie. Gli ho detto: Frank, io devo, ma tu. Questa era di Billy Crystal. Non so se si è capito. Dice, io devo andare a letto con mia moglie, ma tu ma che non capito. Si è capito. Non spieghi le battute. No. Ecco, sappiate che lo spettacolo di Manera è tutto così: fa 3 battute, tutto il resto del tempo è spiegarle. Una dedicata esplicitamente a lei, Ceva. Se le corna avessero le foglie, saremmo sempre all'ombra. Bando alle ciance, andiamo con la sua rubrica. Daniele Ceva ha sempre delle rubriche molto divertenti, dove propone per i palinsesti televisivi delle sue nuove rubriche. Quindi mandiamo la sigla, le idee di Daniele Ceva. Le idee di Daniele Ceva. Bene, io questa volta non ho portato nulla, non ho nessuna idea, perché le ultime volte le mie idee me le avete mortificate. Allora, visto che lei è arrivato qui impreparato, veramente una persona così, scusa. No, io ne ho una meravigliosa non vedo. Viene qui senza preparare nulla. Allora, battezziamo qui una nuova rubrica che è Aneddoti senza pretese. Mandiamo la sigla. Aneddoti senza pretese. Ah! Allora, l'aneddoto è questo. Sentiamo. Erano i primi anni 90, 92. Ero a fare uno spettacolo, una convention per la Ford. Avevo conosciuto una hostess molto carina che c'era in questa convention per la Ford. E ho passato tutta la sera a cercare di conoscerla. Finché a un certo punto eravamo in una sala da biliardo di questo hotel dove si svolgeva la convention. Ah! Lei mi aveva manifestato la sua disponibilità a passare la notte con me. In quel momento è arrivato il ventriloquo Samuel, che lei forse ricorderà. Sì, più o meno. Un ventriloquo anche noto che ha vinto Italia Got Talent 2 anni fa. Mi ha detto il ventriloquo Samuel: facciamo una partita a biliardo? E io in quel momento, per non dire no al ventriloquo Samuel, ho fatto la partita a biliardo e mi sono perso la notte d'amore con questa ragazza che si chiamava Alberta. La mattina dopo, senza aver fatto nulla, ho ritrovato lei seduta sulle ginocchia del ventriloquo Samuel. Questo è veramente incredibile. Sì, questo era per aneddoti senza pretese. Sì, però era divertente. No. Siamo alla fine, no. Ma prima abbiamo sempre la nostra rubrica degli avanzi di poesie, cioè poesie sconosciute che noi vogliamo rendere un po' note. Questa è di un signore che si firma Uno Qualunque. E dove l'ha trovata? In un'antologia? L'ho trovata, in internet, questa l'ho trovata. È bella, allegra, la leggiamo. Il mio cuore è un contenitore vuoto. Tutto il fiume d'amore si è prosciugato in un lago di lacrime. Nel fondo io, sommerso dal peso della solitudine. Buon sabato a tutti. Sempre con allegria. Allora, noi terminiamo qui, non prima di aver salutato Guido Scotti, curatore, Pietro Lacorti, regia, Marco Del Conte, nostro autore, Daniele Ceva e Leonardo Manera. Ma soprattutto chi viene dopo di noi col sabato del villaggio, Marta Cagnola. Ciao Marta e ciao a tutti voi. Buon sabato pomeriggio e sera. Ciao.